GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una barcolana al rallentatore, quella in corso nel Golfo di Trieste, con il record di imbarcazioni iscritte e con la quasi totale mancanza di vento alla partenza. Condizioni difficili per la regata che, e soluzione di pochi secondi fa, si concluderà alla prima boa. Sulle rive dall'altipiano migliaia di spettatori a godersi lo spettacolo delle vele bianche nel Golfo di Trieste. Un'occasione unica per gustarsi una domenica all'insegna della convivialità e dell'allegria. In occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la sezione di Udine dell'ANMIL ha organizzato una manifestazione con partenza dal Duomo e conclusione in via Crispi con la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato alle vittime sul lavoro. Al Teatro Verdi di Pordenone continuano le giornate del cinema muto. Tra gli appuntamenti di oggi un lungometraggio di Sid Chaplin, fratellastro del leggendario Charlotte. Le 12:16, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearzi e Lara Zani per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di domenica 8 ottobre, che si apre con la barcolana caratterizzata dalla quasi totale mancanza di vento. È partita ufficialmente a metà mattinata la regata numero 55, quella più popolata, con 1773 imbarcazioni iscritte alla partenza. Al terzo colpo di cannone le barche si sono avviate verso il campo di regata davanti al Faro della Vittoria, trovando qualche raffica, molto debole, però soltanto più a largo, tanto che poco fa si è deciso appunto di far concludere la regata alla prima boa. Ma sentiamo allora come stanno andando le cose da Sebastiano Franco, che si trova sul posto. Buongiorno, l'assenza di vento toglie spettacolo alla barcolana 55, ma regala sorprese con barche piccole che riescono a mettere la prua davanti ai grandi maxi, così imbarcazioni molto leggere vivono il momento di gloria dopo la partenza, sfruttando piccoli sbuffi di vento e qualche rotazione dell'aria da terra, riuscendo così a lottare con i giganti della vela. Parliamo di Arca, di Benussi, Prosecco Doc e Maxi Iena. Si tratta di Molo Longo, ex tutta Trieste, Gufi, Barra Onda e Irina, la barca che ha vinto la Go to Barcolana da Ravenna. L'assenza di vento indica da subito che la regata verrà accorciata, con la giuria che infatti pochi minuti fa ha deciso di mettere il traguardo alla boa 1, quella verso la Slovenia. Non era mai successo. Il vento sale di poco e le barche grandi aumentano la velocità, con Arca che raggiunge i 4-5 nodi. L'imbarcazione di Furio Benussi sta davanti e sembra in questo momento la candidata principale alla vittoria. A voi. Grazie Sebastiano Franco, e se naturalmente se ci sono novità e arrivo puoi sempre interromperci per darci il risultato finale. E adesso continuiamo a parlare di barcolana. Sono tante infatti le persone a seguire l'evento dai vari punti panoramici della città e anche dalle rive cittadine, pronte a festeggiare il vincitore per il consueto giro d'onore davanti al pubblico prima delle premiazioni. Un'occasione unica per gustarsi una domenica all'insegna della convivialità e dell'allegria. Non ha tradito le attese la grande festa del mare che anima Trieste ogni seconda domenica di ottobre da oltre mezzo secolo. La 55esima edizione della Barcolana, la tradizionale regata d'autunno che popola il Golfo Triestino, quest'anno ha visto al via quasi 1800 imbarcazioni. E alle decine di migliaia di persone arrivate in città in questi giorni si sommano quelle che fin dal mattino hanno popolato le alture del Carso. Provenienze diverse, da tutta la regione, dal resto d'Italia, ma anche da più lontano, tutti accomunati però dalla voglia di godersi lo spettacolo di un golfo riempito dalle imbarcazioni. A dominare, sullo sfondo blu del mare e sul cielo azzurro pallido, è il bianco, ma qua e là, tra le barche, appare qualche macchia di colore. Una vela gialla, uno scafo scuro, il rosso del Moro di Venezia che continua a navigare, il blu notte dei vincitori annunciati. E anche se il vento è pochissimo e la gara lenta, l'esperienza è mozzafiato e la festa garantita. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo ora le condizioni meteo. Il cielo è poco nuvoloso su tutta la regione. A Trieste ci sono 22,5 gradi, il mare calmo con temperatura di 23 gradi, a Pordenone 21,5 gradi, a Gorizia 20,5 gradi, a Udine 20, a Piancavallo 21 gradi, a Forni di Sopra 20, a Tarvisio 18,5 gradi, 17,5 gradi a Tolmezzo, 15,5 gradi a Sappada. Sul Monte Zoncolan 16 gradi, sull'Ussari 15, sulla costa a Grado 21 gradi, a Lignano 20. La temperatura del mare nelle due località a Grado 22 gradi, a Lignano 21. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. In giornata cielo da poco nuvoloso a variabile per velature ad alta quota e temperature molto al di sopra della media del periodo, specie in montagna. Sulla costa brezza debole. In quota vento da nord-ovest moderato o sostenuto. Nella notte tra domenica e lunedì a Trieste potrebbe soffiare borino o bora moderata. Domani cielo in genere poco nuvoloso per velature più consistenti dal pomeriggio, temperature molto sopra la media del periodo, specie in montagna. Di notte al primo mattino sulla costa potrebbe soffiare borino o bora moderata, in giornata brezza. È stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura di Udine il velivolo precipitato ieri a Pasean di Prato, l'aeromobile, un Pipistrel Velis della scuola di volo Fly Enjoy di San Mauro di Premariacco, è stato portato nell'hangar della stessa Fly Enjoy a disposizione della magistratura. Dopo il decollo dall'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco, il velivolo è andato in stallo. Il pilota ha tentato l'atterraggio di emergenza in un'area vicina all'aeroporto, ma è finito in un campo arato. Nell'impatto col suolo il carrello delle ruote si è spezzato e l'aereo si è capovolto. A bordo c'erano un istruttore di 77 anni, Beppe Liva, ex pilota delle Frecce Tricolori con grande esperienza, e un giovane di 17 anni, entrambi feriti in maniera non grave e tuttora ricoverati nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la sezione di Udine dell'ANMIL ha organizzato una manifestazione con partenza dal Duomo e conclusione in via Crispi con la deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato alle vittime sul lavoro. In precedenza una cerimonia civile si è tenuta nella sala Scrosoppi del seminario arcivescovile con la partecipazione del presidente territoriale dell'ANMIL, Luigi Pischiutta. Una processione accompagnata dalla banda di Manzano e la corona deposta sul monumento per i caduti sul lavoro a pochi passi dal Tribunale di Udine. Anche quest'anno l'ANMIL, l'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha ricordato le vittime degli incidenti sul lavoro, un fenomeno i cui numeri sono ancora troppo preoccupanti, spiegano. In Friuli Venezia Giulia nel 2023, da gennaio ad agosto, si è registrato un leggero calo, da 11.400 si è passati a 10.300, quasi 1.000 incidenti dichiarati in meno, con la percentuale migliore a Gorizia, dove si è vista una diminuzione del 22%. Il quadro cambia se si guarda invece agli infortuni mortali. Qui la nostra regione ha visto un triste aumento, da 5 dell'anno scorso ai 16 di quest'anno, la maggior parte a Pordenone 7 e a Udine 6. Un aspetto preoccupante anche perché dietro ai numeri ci sono persone, spiegano durante la cerimonia, persone che vedono cambiare la loro vita in peggio e per sempre, o che muoiono tragicamente. L'invito da parte del presidente dell'ANMIL di Udine, Luigi Pischiutta, è quello di mantenere sempre alta la soglia dell'attenzione. Troppo spesso, di fronte a lavori ripetitivi e noti, ci si distrae e si sottovaluta il pericolo. Serve anche una maggiore cura l'uno dell'altro, aggiunge la direttrice dell'INAIL di Udine, Cristiana Capobianchi, e questa è la differenza, spiega, che passa tra essere un popolo ed essere cittadini. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Teatro Verdi di Pordenone continuano le giornate del cinema muto. Tra gli appuntamenti del pomeriggio alle 17 sarà proiettato un lungometraggio di Sid Chaplin, fratellastro di Charlie Chaplin. Mentre alle 21 grande attesa per Eroi del deserto di William Wyler, la vicenda di tre rapinatori che trovano un bambino nel mezzo di un deserto e sacrificano la vita per portarlo in salvo. Teatro Verdi pieno ieri sera a Pordenone per la serata inaugurale della 42esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, evento cinematografico di caratura mondiale. Proiezioni da mattina a tarda sera, accompagnamento rigorosamente dal vivo, con musicisti provenienti da ogni parte del globo. Il via ieri sera con il regista attore francese Julien Duvivier, noto in Italia per essere stato il regista dei primi due film di Don Camillo e Peppone a inizio anni 50, fino a sabato 14 ottobre con replica della serata finale domenica 15 per le sconosciute da scoprire e capolavori del passato riproposti nella loro copia migliore, possibilmente con partitura originale. Tra le retrospettive a tema spicca quella di Harry Carey, definita una delle stelle più luminose del primi western, quello sulla commedia slapstick tra Europa e America alla ricerca di reciproche influenze, i film polizieschi con Harry Peel, il più popolare attore della Repubblica di Weimar, l'omaggio a Walt Disney da parte dei giovani musicisti delle scuole del territorio e perfino un documentario girato in Amazzonia 105 anni fa, ritrovato a Praga e accompagnato da un pianista messicano. Serata finale con i big del cinema muto, Charlie Chaplin e Buster Keaton. Rassegna che si snoda in tutta la città, arricchita dalla fiera libera del collezionismo cinematografico, incontri tra i giovani ricercatori, archivisti e studiosi e masterclass musicali. Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E si è appena conclusa la 55esima edizione della Barcolana, che è stata dichiarata terminata dopo la prima boa. Allora sentiamo subito Sebastiano Franco. Sì, l'imbarcazione di Furio Benussi, Arca, che è rimasta davanti e ha vinto la Barcolana numero 55 in un'ora 49:55, arrivando per prima in boa 1. E poi il duello tra Prosecco e Way of Life ha premiato l'imbarcazione di Mitia Cosmina, che orzando ha conquistato all'ultimo respiro la seconda piazza. Quindi vittoria di Arca, secondo posto per Prosecco Doc, Shockwave 3 di timonata da Mitia Cosmina. A voi. Grazie a Sebastiano Franco, che quindi ci ha dato la vincitrice della 55esima edizione della Barcolana. Ricordiamo ancora qualche notizia di sport. Basket, oggi in campo per la A2 le tre squadre regionali, la Pallacanestro Trieste impegnata in trasferta contro il San Giobbe Chiusi, l'APU Old Wild West Udine ospiterà il Pallacarnera l'Assigeco Piacenza, mentre la Gesteco Cividale sarà di scena sul parquet dell'Agri Bertocchi Orzi Nuovi. Ed è tutto per questa edizione del giornale, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Federico Commar. Ha collaborato in redazione Cristiana Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.